La serata della vigilia di Natale resterà per molto tempo impressa nelle menti di Lerith e Navi. I due sembrano animali feriti, e quello che fa più male è il fatto che ad essere ferite sono state la loro fierezza e le loro certezze di riuscire a tenere sotto scacco l'intera popolazione. Certezze date dall'assiduo controllo attraverso telecamere, telefonini intercettati, microspie ambientali e gli stessi Taskok che, oltre a fare il loro lavoro visibile, in alcuni casi vengono impiegati proprio come microspie ambientali, dato che la loro struttura priva di ossa gli permette di risalire attraverso le mura degli edifici. Ma l'uomo non può essere controllato, perché lui stesso è il creatore e il fabbricatore di tutta questa tecnologia. L'uomo, per la sua stessa natura e quando specialmente lo desidera, è incontrollabile. Intanto i Refractarius non si limitano solamente alla dinamite, ma attraverso svariati mezzi cercano di fare anche propaganda tra gli zombie. Nel fare propaganda vengono fuori anche le differenze tra Refractarius. C'è chi crede molto nella propaganda di idee che nella pratica, e chi, viceversa, con l'agire cerca di mettere in pratica le proprie idee, dando così un segnale a tutti che ribellarsi è possibile in qualsiasi modo e istante della propria vita. Giornali cartacei, siti, blog e radio sono i mezzi di propaganda più utilizzati in questo periodo dei Refractarius. Hanno anche delle sedi in tutto il mondo in cui si incontrano tra pile e pile di libri. Organizzano qualche iniziativa per sostenere i loro prigionieri, ma anche per pagare l'affitto delle stesse sedi. Anche sul fatto di avere o meno una sede ci sono alcune differenze. Chi decide di avere una sede lo fa soprattutto per essere visibile nella città, dando una precisa connotazione a quattro pareti. Le sedi vengono aperte per dare un punto di riferimento a chi vuole avvicinarsi alle loro idee. Molto spesso però accade che, per la paura del possibile infiltrato, questi luoghi, più che essere aperti a tutti, si chiudono in se stessi, diventando così accessibili ai pochi conoscenti o la maggior parte delle volte ai soli affittuari. In questo modo le sedi perdono tutto il significato, dato che, essendo chiuse a riccio tra di loro, di propaganda ne fanno zero. In più, il fidarsi solo tra pochi incancrenisce i rapporti sociali con il resto della popolazione, facendoli diventare dei piccoli gruppi o sette individuabili anche tra migliaia di persone. Altri Refractarius scelgono di non dare punti di riferimento attraverso un luogo, visibile soprattutto al nemico, ma di propagandare le proprie idee attraverso il loro essere se stessi e i rapporti sociali quotidiani, proprio perché pensano che le idee non vadano confuse con una fede. Tornando al giorno di Natale, subito dopo la conferenza stampa, lo Stato Maggiore dei Taskok si riunisce nel quartier generale, che si trova nella zona futuristica della NAT 013. Questa volta sembrano essere tutti d'accordo. Tutti hanno la stessa voglia di rivincita sui Refractarius, ma non sanno dove andare a sbattere la testa. A parte che quelli che hanno i riflettori puntati su di loro con una sede in pieno centro, le Ritenavid soprattutto non sanno dove sbattere la testa. Colpire nel muccio significherebbe attirarsi le antipatie della popolazione. I due vogliono agire subito, ma vogliono assicurarsi che l'azione repressiva attiri le simpatie degli zombie. Gli unici a poter dar mano forte e che potrebbero avere un ruolo molto fondamentale in questo piano sono i Media Taskok. Essi sono quelli che fanno di solito il bello e il cattivo tempo, entrando a tutte le ore nelle case degli zombie attraverso la carta stampata e il tubo catodico. Sono loro i diffusori della moralità statale e religiosa. L'acido FB mette la classica ciliegina sulla torta. Il giorno seguente, sui giornali e TV non si parla d'altro. In TV i vari canali televisivi accavallano tra loro trasmissioni in cui sono presenti maggiori elementi di governo, preti, gente dello spettacolo, giornalisti e parenti di Taskok morti nell'attacco alla Torre M. Servizi strappalacrime con voce straziante e sottofondo musicale che non lo è da meno. Raccontano le storie di vita di Taskok morti. Il Papa, il Presidente dello Stato e il Capo del Governo uniti fanno un discorso a rete unificato contro la violenza e il terrorismo. Due giorni di martellamento morale servono ad inculcare nelle menti degli zombie i concetti di chi li opprime. Il terzo giorno, con tanto di tappeto rosso ricamato e steso con la morale degli zombie, i Taskok partono all'attacco. We'll be right back. E dopo il racconto di Nazero 13 si inizia la diretta d'azione di oggi, lunedì 20 gennaio 2014, stavo dicendo 2013, 2014, lo ricordo, appuntamento il lunedì, quello con la controinformazione, ma soprattutto la lettura. Lunedì scorso abbiamo finito il libro Veracruz di Valerio Evangelisti sui pirati, libro che rientra in una trilogia sui pirati, sulla storia dei pirati, e oggi ne iniziamo un altro, continuiamo la trilogia, nel frattempo decidiamo noi cosa scegliere, nessuno ci dà un consiglio su cosa leggere, quindi va bene così. Quindi da oggi si inizia con la lettura di Tortuga, il secondo libro della trilogia di Valerio Evangelisti, sempre, cioè, ovviamente sempre sui pirati, come dicevo prima. Poi ci sarà la controinformazione, ci sarà la musica, insomma, classica diretta d'azione del lunedì, mentre da venerdì prossimo tornerà anche la diretta del venerdì, che è mancata per quasi un mese a causa di vari problemi, lavoro, cazzi e mazzi vari. Allora, questo, ricordiamo, dopo aver detto questo, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@autistici.org per chi vuole mandare mail, comunicati, scritti, opuscoli, manifesti, qualsiasi cosa che potete mandare, lo potete mandare alla mail di radiazione. Invece per il blog, dove potete leggere la controinformazione aggiornata, radiazione.noblogs.org, dove potete anche andarvi a riascoltare le vecchie dirette d'azione, dove potete scaricarvi anche opuscoli, libri, cd e manifesti e tanta altra roba che potete trovare nella sezione download. Per la radio invece radiazione.listentumaradio.com, altrimenti attraverso il banner che trovate in home page sulla pagina di radiazione, ci cliccate sopra il lunedì e il venerdì dalle 17 e ascoltate la diretta d'azione. Ora, prima di lasciarvi al brano che poi introdurrà anche il nuovo libro di Valerio Evangelisti, Tortuga, volevo dire giusto due cose, elencare due punti, premettendo che qui sto parlando io, solo io, il sottoscritto, e non Marcello che sta qui accanto a me, e nemmeno tantomeno l'altra compagna che mi ha accompagnato nelle dirette d'azione tra ottobre e dicembre. Elenchiamo questi punti. Punto numero 1. Tempo fa è stata messa una rettifica su quanto riguarda il ritrovamento di microspie a Napoli, chiesta anche da qualcuno che redatta il giornale La Miccia. La rettifica è stata fatta e la potete trovare sul blog di radiazione, con tanto di date di ritrovamento, da cui si capisce anche una voluta mancanza di informare altri compagni che non frequentano le sedi del ritrovamento. Miserabilmente, la stessa Miccia è uscita con una critica al testo di radiazione, tornando sull'argomento. Io non l'ho letto, mi è stato riferito, non l'ho letto e volutamente non l'ho letto, perché non riesco a sentire le voci dei fantasmi e non tornerò più su questo argomento, perché preferisco di parlare di cose vive e non di morti. Punto 2. Sulla chat che si trova sulla pagina streaming di radiazione, ho chiesto mille volte di non scrivere puttanate perché non ho la possibilità di toglierla, dato che si usufruisce di un servizio gratuito con tutte le conseguenze di ritrovarsi pubblicità e chat. Per chi vuole scrivere qualcosa sottoscritto ha una mail a disposizione, se poi si offrite per la mancanza di un palcoscenico per sparare le vostre cazzate, andate su Facebook e non su radiazione, così trovate altri rincoglioniti come voi che vi applaudiranno. Punto 3. Avete messo anche il mio nome sulla chat con tanto di dedica. Vi ringrazio per la dedica accettata. La prossima volta, dato che siete amici di sindaci e consiglieri comunali, cari nemici del ciuff ciuff, andate in questura e date anche il mio cognome. Forse già ce l'avranno. Punto 4. Se vi rode il culo, vi consiglio un bidet ogni volta che cagate, sia per culo che per bocca, dopo una bella spammata di Imodium. Ora ci ascoltiamo un brano, Sarah Knox con il brano Stupid, e poi dopo si parte subito all'avventura di Tortuga. Sarah Knox cantava nel brano Stupid: lasciateci nella nostra solitudine, lasciateci nella nostra tristezza, gli stupidi non sono i nostri compagni di viaggio. Così apriamo la nuova lettura del lunedì su Radio Azione e lo facciamo continuando la saga dei pirati scritta da Valerio Evangelisti. Ci piacciono alcuni libri, ci piacciono dei libri, tutto il resto è noia. In realtà di questa trilogia Tortuga rappresenta il primo capitolo, il primo libro, noi abbiamo invertito perché ci piace andare in sequenza, lasciare un po' di continuità tra quello che leggiamo. E per chi ci ha seguito in questi ultimi mesi, siamo a bordo dei vascelli della filibusta, ci sono dei personaggi che ritorneranno come il cavaliere De Grammont, Lorenzio, altri condottieri dei pirati dei Caraibi al tempo di Luigi XV. Cambieremo però il nostro, diciamo, la persona che seguiamo più da vicino, che fino adesso abbiamo seguito un secondo ufficiale cosiddetto chiamato Hubert Macari. Adesso invece seguiremo le peripezie di un arruolato suo malgrado. Rogerio dos Campos pensò che la sua ora fosse ormai venuta. Il ponte del Rey de Reyes somigliava a un pavimento di un mattatoio. Il sangue scorreva a rivoli o si espandeva a macchie tra gli alberi abbattuti, fasci di veli e gli intrichi di sartiame reciso. Alcuni moribondi e mutilati si lamentavano ancora, oppure gridavano invocando Gesù o la Madonna. I pirati si aggiravano tra i corpi, tagliando con fendezza la gola ai superstiti e gettando i cadaveri in mare, anche quando si trattava di loro compagni senza speranze di guarigione. Spazzavano via i piedi di cervo, i chiodi a quattro punte lanciati al momento dell'assalto. L'odore del sangue era così penetrante da superare quello della salsedine e stordiva. L'uomo biondo dalla pelle bruna che aveva guidato l'abbordaggio, una pistola carica in mano e una corta sciabola nell'altra, guardò i superstiti, una ventuna in tutto. «Chi di voi è cannoniere?» domandò in uno spagnolo approssimativo. Dopo un'esitazione, quattro uomini alzarono la mano. «Bene, avete la scelta tra finire in pasto agli squali e venire con noi», indicò con la sciabola il brigantino addossato al galeone, quegli alberi intatti, eccetto quello di mezzana, lievemente danneggiato. «Chi di voi si arruola?» E si levarono quattro braccia tremanti. «Direi che avete fatto la scelta giusta», sogghignò il mulatto dalla capigliatura bionda. «Benvenuti tra i fratelli della costa, passate ora sul Neptune», sputò oltre l'impavisata di Triburgo. «Veniamo ora agli ufficiali e ai signori sottufficiali. Ce ne sono tra questi signori?» Non vi fu risposta. La paura paralizzava le lingue. Rogerio temeva di morire da un momento all'altro, tanto era il terrore che provava. Il suo cuore batteva palpiti rapidi e irregolari, respirava con affanno. Notò appena i cannonieri che si avviavano alla fiancata diretti al brigantino dalla bandiera nera sotto le spinte dei pirati nerboruti e lordi di sangue. Intanto i paranchi cigolavano e sollevavano le reti che avrebbero trasbordato le merci dal galeone alla nave che lo affiancava. «Le ho fatto una domanda, per Dio!» disse il mulatto spazientito e agitò lo sciabolotto. «Siete muti! Non vi ho fatto ancora tagliare la lingua, ma posso provvedere tra breve. Dov'è il capitano?» «È morto in combattimento», si decise a rispondere il maestro d'ascia. «E gli ufficiali? Morti anche loro!» Si sporse un po' che additò Rogerio. «Resta solo il nostro uomo!» Rogerio lo odiò, ma c'era poco da fare. Abbassò il capo, come se ciò potesse rimpicciolirlo e renderlo invisibile. «Ah! Un nostro uomo!» esclamò il comandante pirata con interesse. «Sul Neptune ne ho già uno, però so che il capitano De Grammont ha perso il suo e ne cerca un altro». Rogerio, sempre chino, vide apparirgli dinanzi un paio di stivali a sbuffo, dalla sola sporca di sangue, pantaloni grigi e i lembi di un mantello dello stesso colore, oltre alla guaina di una spada lunghissima inadatta agli sciabolotti e alle daghe usate nell'arrembaggio. «Guardami in faccia, idiota!» ordinò il pirata brutale ma senza collo. «Sei spagnolo, quanti anni hai?» Rogerio si sollevò la mano sul capo per non far cadere l'ampio cappello, trovò la voce per rispondere. «Io sono portoghese, signore, sono devoto suddito di Pietro II, re della mia terra. Navigo da 5 anni, in effetti servivo sul re dei Reyes come nostromo. Ho 32 anni, compiuti da qualche mese». Le ultime parole Rogerio le dovette quasi urlare. Il frastuono era divenuto infernale. Ai lamenti, alle esclamazioni, allo strillio dei cordami si era aggiunto un suono insolito proveniente dal Neptune. Sul cassero del brigantino aveva preso posto una piccola orchestra formata da 4 tamburini, 2 trombettieri e 1 violinista. I 7 uomini suonavano una specie di inno marziale, forse un canto di vittoria o di lavoro. Il rullare dei tamburi prevaleva sugli altri strumenti. Fatto sta che la musica parve dare nuova lena ai pirati, impegnati nel trasbordo. Rogerio capì da dove proveniva la marcia languida e macraba che aveva preceduto l'abbordaggio al suo galeone. Mesi dopo, avrebbe imparato che era chiamata la Regen, una cantilena. Causa il vento contrario, era sembrata avere origini remote. Quei suoni non infastidirono affatto il mulatto, però, che proseguì. E come mai un portoghese era al servizio dei peggiori nemici del suo paese? La domanda non prometteva nulla di buono. Rogerio si sforzò di essere convincente. Mio padre fu deportato a Siviglia quando il Portogallo apparteneva alla Spagna. Io sono nato là, però mi sento portoghese. C'era poco di vero, ma il tutto sembrava credibile. E da quanto tempo sei nostro? Da circa 1 anno. Non è molto, ma De Gramont dovrà accontentarsi. Passa sul Neptune. Solo allora Rogerio so guardare da capo a piedi il capitano della nave nemica. Era abbastanza alto, magro, con baffetti fini, pizzo e capelli biondi lunghissimi. Aveva occhi azzurri, mobili e vivaci, stranamente contrastanti con la carnagione. Malgrado la brutalità che stava esercitando, c'era una certa eleganza, sia nei tratti del suo viso bruno, sia nelle sue movenze. La voce era roca e dura, però con un misterioso sottofondo di gentilezza naturale. Il capitano stava dicendo ai prigionieri rimasti circa 15 in tutto dopo la diserzione dei 4 cannonieri. «Sarò pietoso e vi lascerò in vita. Gli arruolamenti a forza non fanno per me. Del re de Reis è rimasto quasi intatto solo l'albero maestro. Lo farò abbattere e inchiodirò il timone. Dopo, se sarete soccorsi alla deriva, dipenderà dalle vostre preghiere e dal potere del vostro papa. Ma così ci condannate a morte», piagnucolò il maestro d'ascia. «Avete preso acqua e viveri. Voi siete già morti. Io vi concedo qualche giorno in più. Ringraziate se non vi affondo». Il grosso pirata gocciolante, sangue da un taglio sulla fronte, che stava sospingendo Rogerio della murata di tribordo, commentò: «Mai visto il capitano Lorenzillo tanto generoso. Quelli non sanno la loro fortuna. Di solito sulle navi spagnole catturate non lascia anima viva. Un tempo non era così, ma adesso è costume. Lorenzillo. Lo chiamano in questo modo, ma il suo vero nome è Laurence de Graaf. Forse ti dice qualcosa». Rogerio trasalì. Laurence de Graaf nel Mar dei Caraibi lo conoscevano tutti. Era tra gli sciacalli più spietati che si nascondevano nella fascia di mare racchiusa tra Hispaniola e la Isla de Tortuga, la Tortue per i francesi che la governavano. Nel 1683, 2 anni prima, aveva preso Veracruz, assieme al suo maestro d'allora, il misterioso cavaliere de Gramont. Era stata un'orgia di crudeltà durata 7 settimane. Sugli abitanti della città facoltosi o al servizio di potenti, rinchiusi nella cattedrale minata, era stata sperimentata ogni forma di supplizio. Si trattava di indurli a confessare dove avessero nascosto le ricchezze loro o dei padroni. Alle suore, che Lorenzio detestava perché luterano e De Gramont in quanto ateo, era toccata la sorte peggiore: essere stuprate da torme di pirati e poi stipate nel lazzaretto a contatto con i lebbrosi. I fratelli della costa, venuto il tempo, erano salpati da Veracruz lasciandosi alle spalle un centinaio di morti e altrettanti moribondi. «Aspetta adesso», disse l'accompagnatore di Rogerio, «passati i negri, andiamo anche noi». Il re de Reis era e il più basso Neptune erano tenuti giunti, oltre che dai grappini d'abbordaggio, da funi precarie, passerelle e fasci di griselle tagliate e usate come ponticelli. Su quei supporti insicuri si stavano facendo passare gli schiavi negri scovati nelle stive del galeone, una delle merci più ambite dai pirati, che normalmente trascuravano ciò che non fosse denaro contante, lingotti d'oro o balle di stoffe raffinate. Gli schiavi nudi o seminudi barcollavano sulle passerelle o strisciavano sulle corde, in preda ad un evidente terrore. Chi loro guardava in basso, nel limbo di mare che separava le due navi affiancate, di certo non notava le pinne degli squali attratti dal troppo sangue versato in acqua. «Ah, ci sono anche delle negre femmine», rise la guida di Rogerio. «Arrivate alla tortuga, ci divertiremo». Fece una pausa, poi staccò le mani dalla murata. «Ecco l'ultimo degli schiavi. Speravo fossero di più. Su, seguimi, nostromo, si va sul Neptune». Passarono carponi su due fasci di sartiame arrotolato tesi fra i velieri. Intanto, sulle loro teste, altri pirati, agili come scimmie, trasbordavano appesi alle fune oppure semplicemente, dopo una breve rincorsa, saltavano da un ponte all'altro, a rischio di cadere in mare o di spezzarsi le gambe. Rogerio, avvezzo ai comportamenti formali della marineria spagnola mercantile e da guerra, era intimorito e al tempo stesso affascinato dall'animalità di fuorilegge. Mise i piedi sul Neptune mentre ancora l'orchestrina rullava i tamburi e suonava marcette. Fu come atterrare in un nuovo mondo. Nulla sul brigantino a palo, cioè con tre alberi, ricordava ciò a cui era avvezzo. Sul ponte regnava la più totale confusione di uomini ed oggetti. Barili rotolavano da una murata all'altra a ogni ondata. Pirati, troppo anziani per abbordare, fumavano lunghe pipe, sedute sui pennoni di rispetto, e si godevano lo spettacolo della presa del galeone come a teatro. C'era sporcizia ovunque. Sul castello di poppa, nello spazio di norma riservato agli ufficiali, sostavano cinque individui torvi, vestiti di pelli, con fucili alti quanto loro. Si poggiavano le armi come a stampelle. I pantaloni corti e le gambe nude e pelose erano la sola concessione al caldo torrido. Attorniavano il timoniere un ragazzo biondo dall'espressione infantile. I loro colpi avevano causato i primi voti tra i difensori del Re de Reyes. Rogerio, già scosso per non dire terrorizzato, alzò gli occhi al parrucchetto. Gli sventolava la Jolie Rouge, un simbolo noto detto dagli inglesi Jolly Roger. Era una bandiera di colore rosso, o in quel caso nero, esibita al momento dell'attacco dopo un profluvio di insegne fasulle per spaventare la preda. Ogni filibustiere aveva la sua. In questo caso, la stoffa era nera e vi era cucito un teschio che sovrastava due tibie incrociate con sotto una piccola clessidra. L'emblema dimostrava l'appartenenza ai fratelli della costa, i pirati fedeli al re di Francia. La clessidra voleva dire «Badate, il vostro tempo è venuto» o qualcosa di simile. L'uomo dalla fronte insanguinata disse «Rimani qui, ci vedremo più tardi, sono stato anche nostromo sotto Michel de Basque anni fa. Mi chiamo Henri Duval, potrei darti buoni consigli». Prima che Rogerio avesse il tempo per replicare, il pirata si aggrappò ad una cima penzolante e, presa una breve rincorsa, salì sul ponte del galeone. Il portoghese rimase nuovamente stupito, per meglio dire ammirato, dall'agilità animale di cui i pirati davano prova. Si domandò se non fosse una di quelle chiavi, se non fosse quella una delle chiavi del loro successo. Fu afferrato per un braccio da un uomo giovane ma già grinzoso, che aveva sul capo il largo fazzoletto che tutti i marinai portavano sotto il cappello per frenare i rigori di sudore. In quel caso però il cappello mancava. «Sei un prigioniero, no? Vieni alle pompe. C'è bisogno di gente alle pompe», disse il pirata in francese. Rogerio si irrigidì un poco. «Sono un nostromo, il vostro capitano mi ha arruolato in quanto tale». «E allora?» Il marinaio gli rise in faccia senza allegria. «Nostromo, allora, scendi con me, non farmi perdere la pazienza, porco d'un diavolo. Il Neptune deve riprendere il mare. Vuoi seguirmi o preferisci che ti apra la pancia?» Rogerio notò che il brigantino aveva resistito meno di quanto avesse creduto ai cannoneggiamenti del Re de Reyes. L'albero di mezzana morso alla base pendeva a tribordo, sotto il carico del sartiame si sarebbe schiantato di lì a breve, e una decina di uomini cercavano di raddrizzarlo. Un tratto di murata era sparito in corrispondenza del mascone di babordo. In basso i danni dovevano essere stati perfino maggiori. «Andiamo», disse il marinaio, «preparati a nuotare, la pompa è quasi sommersa». Il pirata si infilò in un boccaporto e ne scese la biscaglina. Rogerio lo seguì e si trovò in una specie di inferno. We'll be right back. Loro erano The Chameleons con il brano Perfume Garden. Ora, dopo la prima lettura del primo capitolo di Tortuga di Valerio Evangelisti, si passa alla controinformazione. Si va negli Stati Uniti, dove c'è un testo dal titolo Una visione del futuro, dove tutti i Roberti Ardinolfi camminano con le stampelle. Leggiamo il testo. Tornando al maggio 2012, Roberto Ardinolfi era capo di Ansaldo Nucleare, tuttora lo è, sottolineiamo, che costruisce centrali nucleari in tutta l'Europa, inclusa una a Krško, Slovenia, e Cernadova, Romania. Ardinolfi ha potere, soldi, prestigio e influenza. Per lui le sofferenze e le morti a Fukushima, Giappone, non sono state neanche lontanamente vicine quanto l'ufficio con il climatizzatore o la sua lussuosa casa a Genova o i suoi abiti costosi. Alcune volte devi rompere e inoltre ancora nessuna delle sue trappole mortali si è sciolta. Ancora, parola chiave, ancora. Roberto Ardinolfi, con il suo potere, denaro, prestigio e influenza, non ha neanche notato il mezzo che lo seguiva davanti casa. Ha creduto con arroganza che avrebbe fatto un'intera carriera guadagnando denaro a palate, facendo rotolare il dado radioattivo e scommettendo milioni di vite altrui, e che mai avrebbe dovuto rispondere a nessuno in ogni caso. Così la mattina del 7 maggio Ardinolfi è uscito dalla sua lussuosa abitazione a Genova e si è diretto verso il suo ampio ufficio con l'aria condizionata, quando un proiettile anarchico lo ha zoppato. Ha perso sangue ed ha urlato. Il suo vestito costoso si è rovinato. Alfredo Cospito e Nicola Gai si sono assunti questo servizio pubblico umanitario di consegnare un chiaro messaggio ad Adinolfi da parte di milioni di future vittime del suo olocausto nucleare. Non hanno ricevuto premi o encomi, ma rispettivamente 10 anni e 8 mesi e 9 anni e 4 mesi. Risulta chiaro che il governo italiano reputa più importante il vestito macchiato di Adinolfi rispetto alle milioni di vite che tremano all'ombra dell'incubo nucleare. Data la lunga esperienza di delusi gerarchi, questo probabilmente non suonerà strano. I comunicati ispiranti e decisi di Alfredo Cospito e Nicola Gai si trovano in inglese su Act for Freedom Now, che è un sito di compagni con cui si collabora anche con Radiazione, oppure ti trovate in italiano su Radiazione. Il 30 ottobre, quando Cospito ha cercato di leggere il proprio comunicato in aula, i giudici lo hanno interrotto e poi immediatamente l'intervento della polizia hanno espulso i due anarchici dall'aula. Vedendo tutti i resoconti, l'indirizzo di casa dei giudici è ancora sconosciuto. Il giudice non sembra camminare con una stampella. I pubblici ministeri Nicola Piacente e Silvio Franzi, che hanno arringato a lungo e ottenuto 1 milione di euro come danni da pagare senza dubbio per il vestito di Adinolfi, camminano con spensieratezza e passo simmetrico. Questi funzionari chiaramente non hanno ancora ricevuto un proiettile nelle ginocchia. Ancora. Parola chiave, ancora. Oltre alla reale e penetrante ferita giustizia, che è piuttosto ovvia, c'è anche una sorta di giustizia poetica in tutto ciò. Non solo il povero e l'impotente che si svegliano spaventati ogni giorno, non più. Così come la gente che teme di sentire la sirena della vicina centrale. I funzionari in Italia adesso trattengono il respiro quando escono dalle loro case e si dirigono a commettere la loro quota giornaliera di atrocità mondane. Quando le auto gli sgomano vicino, loro si pisciano un po' addosso e accelerano rovesciando il caffè. In quel momento di panico e terrore intravedono un frammento del futuro, una visione dove i dirigenti aziendali e i legislatori, banchieri e magnati del petrolio, vertici militari e capi di stati, a piedi appoggiandosi ai bastoni o incespicando con le stampelle, sorridono e annuiscono gli uni con gli altri mentre passano, ma con sorrisi terribili e occhi spiritati. Credo che questo momento gli sembri molto reale e rabbrividiscono quando contemplano tutti questi spari ben mirati, espressamente non letali, perché i tiratori li vogliono vivi. Se li uccidi non capiranno nulla. Ci sono parcheggi in tutto il mondo dove tanti miseri e infami Adinolfi passano per andare a casa, dove una giornata di lavoro passata ad uccidere il futuro. Parlano ai loro cellulari con le loro mogli mentre mandano messaggi alle amanti e pianificano le fosse comuni che orchestreranno l'indomani. Non fanno mai caso alle auto alle loro spalle, non sospendono mai nulla. Quanti Alfredo Cospito e Nicola Gai potrebbero esserci? Quanti davvero? Il comunicato poi è firmato da Sean Swain 243205 o io stato penitenziary 878 Coitville Haberabad Road Youngstown Ohio 44505 USA. E questo era il comunicato delle riflessioni riguardo a quello che è accaduto nell'ultimo anno in Italia, quello del 7 maggio del 2012 con l'azzoppamento di Adinolfi e i conseguenti arresti di Alfredo e Nicola nel settembre 2012 e poi alla sentenza, quella che c'è stata a novembre, che ha condannato i due compagni che hanno rivendicato l'appartenenza al nucleo Olga come unici appartenenti al nucleo Olga by FRI. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Freshfield con il brano Reflect the Enemy e poi dopo si torna qui e si ritorna con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Rogerio supponeva che i pirati rimasti feriti nell'abbordaggio al Rey de Reyes fossero stati molti, però non ne immaginava il numero. Sceso sotto coperta, respirò ancora una volta l'odore sgradevole del sangue. Gli giunsero alle orecchie urla soffocate e lamenti flebili simili a vagiti. Sotto la volta bassa del lungo corridoio che ospitava i cannoni era stato allestito un ospedale improvvisato. Un uomo in parrucca, certo il chirurgo di bordo, passava curvo da un giaciglio all'altro dei semplici sacchi di juta, seguito da un carpentiere armato di sega e succhietto. Probabilmente il medico stava appurando se c'erano arti da segare per prevenirne una cancrena. Non ti imbambolare! Andiamo un piano più sotto, disse il pirata che faceva da guida a Rogerio. Questi scese una nuova biscaglina e giunse a destinazione una stiva puzzolente di catrame in cui l'acqua ribolliva, riempendo l'ambiente fino a mezz'altezza. Tavole, ceste, fili di paglia, pezzi di legno galleggiavano da ogni parte. Un secondo carpentiere, aiutato da alcuni marinai, cercava di riparare le numerose falle della murata. Altri uomini, sommersi fino a metà petto, azionavano la pompa. Un gruppo di schiavi aiutava a vuotare lo scafo allagato, a forza di secchi. Correvano rapidi e sguscianti verso i gradini del boccaporto che si apriva tra il cassero e il trinchetto. «Quello là è il tuo posto», disse la guida indicando un manico della pompa mentre la schiuma leosa gli copriva i piedi nudi. «Ecco il nuovo nostro amo di De Grammont, amici. Si chiama... come ti chiami, Rogerio?» «Rogerio!» «Ah, ci porti qui uno spagnolo, Jean-Baptiste Renard», chiese ostile uno degli uomini sbuffando. «Ma no, François, lui è un portoghese. Lorenzillo lo ha nominato nostro uomo per conto del cavaliere e contenti loro». «Jean-Baptiste?» si rivolse a Rogerio che gli indicò il lungo manico, a cui erano già aggrappati due marinai da un lato a tre dall'altro. «Attaccati qui e lavora di muscoli, certe cariche, tra noi le si conquista». Appena il pirata si fu allontanato, Rogerio si rese conto di quanto duro fosse il compito. Già era intirizzito per il gelo oceanico e spossato dalle fatiche del combattimento. Ora si trattava di mettere la testa sotto il pelo dell'acqua, tirando a sé un braccio mobile che opponeva ogni possibile resistenza, per poi emergere, quando era il turno dell'altra squadra, con la bocca piena di liquido salato e l'olio incollato ai capelli. Nessuno parlava. Per la sentina risuonavano solo le implicazioni del carpentiere e il suono dei martelli con cui i suoi aiutanti inchiodavano le tavole. Se c'era un maestro d'ascia a bordo, doveva essere di sopra, a dare una mano al chirurgo nel recidere braccia e gambe, oppure a progettare ulteriori riparazioni. Uno stoppaccio, urlava il carpentiere, ho bisogno di uno stoppaccio. Eccolo, gli rispondeva qualcuno, qui la falla è a posto, ce ne resta una. Ma cosa fanno gli schiavi e gli sfaticati alle pompe? All'inferno, Dixon, rispose François, peraltro troppo stanco per essere in collera. Una macchia galleggiante di bitume gli aveva dipinto il viso di nero fino alla cima dei capelli. Non vedi che l'acqua scende? Scende un accidente, papista della malora. Eppure ti dico che scende. In effetti il livello dell'acqua si stava abbassando e presto fu chiaro. Merito della pompa, ma anche dei rattoppi alle murate operati dal carpentiere e dalla fatica degli schiavi. Quando ebbe gli stivali quasi all'asciutto, François si staccò finalmente dall'ordigno che aveva azionato fino a quel momento. Asciugò come poté con lavabraccio sporcizia acqua e il sudore che gli grondava dalla fronte e ordinò ai compagni di lasciare la pompa. Quindi squadrò Rogerio. «Ha detto Jean-Baptiste che saresti nostro uomo a servizio di De Grammont. Tu sai chi sono io?» «Non ne ho idea», rispose Rogerio con il filo di voce che riuscì a emettere. I polmoni gli dolevano e qualsiasi guizzo muscolare gli causava una fitta intollerabile. «Io sono François Le Bon, nostro uomo del Neptune. Ora, guarda me e te. Credi di essere adatto a fare il mio stesso mestiere?» In effetti nessun paragone tra i due uomini era possibile. Quanto Rogerio era mingherlino, tanto Le Bon somigliava a un colosso. Non alto, questo no, però la sua struttura fisica impressionava. Era evidenziata dal petto villoso e dal viso barbuto e brutale, con gli occhi duri sormontati da sopracciglia nere a causa del catrame, ma forse in origine grigie come i capelli. L'età era indefinibile, tra i 50 e i 60. E non molto dissimili. apparivano gli altri avventurieri di lì a poco. Ruggero avrebbe imparato che i pirati fra loro si definivano così, avventurieri, che ancora boccheggianti circondavano il sottufficiale. Né diversi apparivano il carpentiere e i suoi aiutanti seduti tra le pozze d'acqua residue a riprendere fiato. Zuppi e tremanti avevano l'aspetto di semplici bruti, ma nei loro panni, magari in origine eleganti, adesso fradici e macchiati. Muscolatura abnorme, barbe lunghissime, cipigli cattivi, capigliature che anche prima del bagno involontario dovevano essere state unte. Si stavano litigando una delle poche prese di tabacco rimaste indenni dall'umidità. François Le Bon caracallò fino a un palmo da Ruggero col caratteristico passo del marinaio. Pareva sorridere. Beh, comunque, credo che, anche se sei magrolino, tu sia stato scelto per qualche motivo. Di norma si preferisce essere Nostromo sotto Lorenzillo che sotto il cavaliere de Grammont. Quell'uomo mette i brividi a tutti. Magari ti adatterai, e tese la mano. Benvenuto a bordo, collega, benvenuto tra i fratelli della costa. Ruggero aveva un'idea ancora vaga di chi fossero quei fratelli della costa che udiva menzionare di continuo, tuttavia ricambiò la stretta e non gemette quando l'altro quasi gli stritolò le dita. Pochi minuti dopo, al seguito di Le Bon, risalì sul ponte. Il galeone e il brigantino seguitavano a oscillare assieme, trattenuti dai grappini e dalle imbragature, ma le operazioni di carico erano ormai al termine. L'orchestrina aveva smesso di suonare. In alto, i marinai del Neptune addetti alle manovre srotolavano le vele, mentre sul ponte i loro compagni alzavano i pennoni delle gabbie, aggrappati alle mante in gruppi di 3 o 4. Cantavano una canzone in spagnolo, lenta, scandita, da quel momento Ruggero avrebbe udito 1000 volte. Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita, y arriba. Lorenzillo, ritto sul castello di poppa, sembrava molto irritato. Ma capite, Filippo? Stava sbraitando, rivolto a un uomo alto e dal viso aristocratico, forse il primo ufficiale. Solo 47 libbre d'oro in compenso a una quantità impressionante di chinino. A chi venderemo tutto quel chinino? Tante perdite per riempire il Neptune di merda per chirurghi. Ruggero non poté udire la risposta pacata dell'ufficiale, udì però la replica irosa di Lorenzillo. Lo so anch'io, ma non possiamo navigare tutta la costa alla ricerca dei malarici. Subito dopo la voce del comandante si calmò un poco. Va bene, borbottò. Si torna alla tortuga, cercherò di farmi comprare il carico dal governatore, anche se già la quota che spetta a lui sarebbe sufficiente a curare malati per 100 anni, e poi speriamo in una bella epidemia. E perché non passare per Cuba? Chiese il primo ufficiale. Là la malaria è una piaga costante. Lorenzillo parve colpito. Non avete tutti torti, Filippo. A Cuba il chinino si venderà come il pane. Completate il trasbordo anche sulle altre navi e date l'ordine di partire. Rotta sulla Havana. Altre navi. Ruggero si guardò attorno e vide che, in effetti, erano apparsi 2 brigantini senza insegni che si tenevano a distanza. Intanto sul re dei Reyes i pochi superstiti erano raggruppati a prora, a occhi spalancati, incerti sul loro destino. Ma i pirati non parevano fare caso agli sconfitti. Erano piuttosto interessati a spogliare il galeone di ogni cosa utile per loro, dai barilotti di polvere da sparo alle bottiglie di rum, ai candelieri che avevano ornato la mensa ufficiale, fino agli attrezzi di carpenteria e al cordame. Passavano gli oggetti più pesanti tramite i paranchi, oppure saltavano da un veliero all'altro aggrappati alle sartie recise con una mano sola, mentre con l'altra stringevano al petto il bottino. La tolda del Neptune era un'esposizione di mercanzie disparate, incluse immagini sacre, gabbie di polli starnazzanti e cumuli di pistole d'archibugi. «Basta così!» urlò il primo ufficiale. «È tempo di fare vela, tutti a bordo!» «Signore!» obiettò un marinaio anzianotto appena volato sul ponte. Si era infilato una sfilza di posate d'argento nella cintura. «C'è ancora un sacco di roba utile sulla nave spagnola!» «Sì, però noi siamo già sovraccarico, Pepe. Non vorrai che coliamo a picco per troppa avidità!» Ruggero rimase stupito, non per la frase insignificante, bensì per il fatto che un ufficiale rispondesse direttamente all'obiezione di un uomo della bassa forza. Nella marina militare spagnola, e per quanto gli constava nelle marine di tutto il mondo, agli ufficiali era fatto divieto assoluto di comunicare con l'equipaggio. Ciò poteva avvenire solo tramite il nostro uomo o altri ufficiali. Chi trasgrediva e rischiava di morire sotto le frustate. Rogerio si chiese quale tipo di vita sociale lo aspettasse. I suoi presagi non lo rassicurarono. Aveva abbandonato ormai da 6 anni l'esistenza conventuale. Però la quotidianità marinara gli aveva garantito col suo rigore analoga disciplina. Era abituato a seguire regole ferree, ad essere servizievole con i capi e fermo con i subalterni, a eseguire ogni ordine senza fiatare. Parlava di norma sottovoce e teneva per sé i suoi pensieri. Gli pareva che i pirati seguissero regole opposte e ciò lo disturbava non meno del gelo che ancora avvertiva nelle ossa malgrado il solleone. Quando François Le Bon gli batté sulla spalla di un sussulto, si girò di scatto, ma l'altro sorrideva. «Hai fatto la tua parte, mio giovane collega», disse il nostro amo del Neptune. «Seguimi, ti faccio vedere dove sta la tua amaca di sotto. Per almeno 3 ore potrai dormire, però tieni presente che a bordo non è permesso riposare tanto. Tutti quanti devono darsi da fare al limite delle forze, ma consolati. Con De Grammont la tua vita sarà molto peggiore, quello è un demonio incarnato». «Siete proprio sicuro che De Grammont mi voglia?» balbettò Rogerio. «Eh sì! Tra i fratelli della costa scarseggiano i capitani e gli ufficiali sottufficiali decenti. Si naviga come si può, per questo uno stromo con un po' d'esperienza è merce preziosa. Ora vieni, spero solo che tu sia indifferente alle pulci e ai pidocchi, perché giù ce n'è da vendere». Prima di avviarsi, Rogerio lanciò un'ultima occhiata al re dei Reyes, ormai quasi libero dalle cime che lo tenevano vincolato al Neptune. Con l'alberatura centrale abbattuta e il timone inchiodato, le fiancate sfondate, non sarebbe andato molto lontano. Eppure i sopravvissuti parvero sollevati. Un paio di essi agitarono persino il cappello in segno di saluto e di gratitudine. Dal ponte di Galeone, il galeone seguitavano a colare rivoletti di sangue. Uno degli uomini silenziosi, vestiti di pelle, che si tenevano ritti accanto al timone, sistemò il fucile sul treppiede e prese la mira. La testa di uno degli spagnoli che salutavano esplose come un cocomero percosso da un martello. L'equipaggio del Neptune scoppiò in una risata collettiva. Il re dei Reyes, libero da cappi, ora prese lentamente il mare. Sinner. Sadist. Falling. Falling. Down, down, down, I'm falling back. Into a wave of pain as I sit and lacerate my veins. Falling. Back. Falling. Down, down, down, I'm falling back. Into a wave of pain as I sit. Mai con il brano Falling. Ora si passa di nuovo alla controinformazione e si va a Mosca, in Russia, dove sono stati attaccati un escavatore e un bulldozer. Leggiamo direttamente il testo rivendicativo. Nella notte tra il 31 dicembre e 1 gennaio sono stati incendiati due mezzi nel cantiere vicino alla foresta, all'incrocio tra Ring Road e Kaluga. La sicurezza ovviamente non si aspettava la nostra visita in questa notte, così abbiamo tranquillamente bruciato i loro veicoli. Cogliendo il momento giusto, abbiamo usato molti stracci e due contenitori di benzina. Nessuno è rimasto ferito, tranne ovviamente gli interessi del proprietario. Vogliamo dedicare il nostro attacco agli anarchici prigionieri in Bielorussia? Ragazzi, non vi dimentichiamo. Chiediamo ai membri della Croce Nera locale di trasmettere le notizie e le parole di sostegno ai nostri amici e compagni. Speriamo che questo porti un po' di luce e calore nelle vostre giornate grigie. Per quanto riguarda la nostra attività nella difesa dell'ambiente, non abbiamo intenzione di lasciare il nostro percorso e cambiare il nostro metodo di lotta. A differenza del signor Chirikov, non stando nella comoda posizione dell'amministrazione, possiamo permetterci di fare tutto ciò che crediamo necessario. Non accettiamo piangistei, come la violenza non è brutta, è una brutta cosa, non si può dar fuoco ai veicoli, dobbiamo raccogliere firme e farci ascoltare a livello federale. Questo dicono i fantocci che hanno paura di lasciare le comodità di un posto di un ufficio. Dare a chiunque il diritto di usare la violenza a proprio svantaggio significa automaticamente alzare la bandiera bianca. Basta solo pensare alle loro parole: questa violenza, questo macismo è illegale, eccetera, eccetera. Elemosinando il permesso di protestare, stai vendendo te stesso. Possono esistere solo forme incontrollate di resistenza in forma libera. Protestare sotto l'egida dell'organizzazione liberale condanna al fallimento. Non sprecate la vostra forza, restate liberi, selvaggi, per la miseria. Elf-FRI, Mosca 2014. E questo era il testo rivendicativo che arriva direttamente da Mosca per questa azione. Loro chiedevano alla Croce Nera locale di trasmettere le informazioni e fortunatamente l'informazione col testo è stata trasmessa. Ora ci ascoltiamo un brano di Red Lorry, Yellow Lorry, il brano è Chance, e poi dopo si torna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. vita di bordo. La settimana successiva al suo arruolamento forzato sul Neptune riservò a Rogerio De Campos molte sorprese. La prima fu che l'equipaggio lo accolse con indifferenza, in qualche caso con cordialità. Lo stesso capitò anche ai cannonieri spagnoli, che nessuno trattò da nemici. C'erano del resto altri spagnoli a bordo, divenuti senza patria contro la loro volontà, ma rassegnati alla nuova condizione. Perché? Rogerio lo capì quando udì il marinaio di nome Pepe Canseco parlare a un gruppetto di connazionali. «Non è possibile tornare indietro per la Spagna, siamo dei rinnegati. Se ci riprendono ci fanno subire la sorte riservata ai traditori, tagliati pezzo per pezzo oppure squartati». Alla Tortuga si ricorda ancora il caso di Juan Venturate, che facilitò la presa di Campeche quasi un secolo fa. Urlò per ore sotto le tenaglie roventi. «Le pene non sono cambiate per noi rinnegati, tanto vale considerarci cittadini di un mondo diverso». E quella diversità non era difficile da cogliere. La vita quotidiana sul Neptune era faticosissima e frenetica come su ogni altro veliero al mondo. Dall'alba al tramonto gli avventurieri erano alle prese con le velature da imbrogliare o da spiegare a seconda dell'impetuosità del vento o dell'angolo da cui spirava. Carpentieri, maestro d'ascia e la manovalanza ai loro ordini riparavano le parti danneggiate dello scafo durante l'ultimo scontro. Al piano inferiore gli artiglieri oliavano le bocche da fuoco, ne ripulivano le canne e le fissavano con legami solidi. Altri artiglieri confezionavano i pacchetti di polvere da sparo, quelli grossi per i cannoni e quelli più piccoli per pistole, archibugi e fucili. L'unica pausa durante il giorno era quella del pranzo delle 10 di mattina, servito da un cuoco bretone, Auguste Lebras. Il menù era sempre lo stesso: carne di manzo o di porco salata, accompagnata da gallette oltre ad una razione di vino o di rum. Altro rum era servito alla sera in quantità un poco più abbondante. Abbastanza perché gli uomini dell'equipaggio erano annicchiati nelle loro amache o distesi su stuoie, dormissero senza far caso all'assedio di scarafaggi e topi, che peraltro si temevano a distanza, specie se il sentore di alcol era molto acuto, si diceva. Ciò avveniva anche sui galeoni spagnoli, a parte l'alternarsi applicato a volte ma con riluttanza dai pirati, di 4 ore di attività e 4 ore di riposo, scandite da una campanella. L'elemento differente era un altro. Rogerio ne chiese ragione a François Le Bon un giorno in cui si trovavano assieme a fissare i paranchi, attività delicata riservata ai nostroni. «Ieri notte il capitano Lorenzio si è assunto il compito della guardia notturna, ne sapete il motivo?» «Che domande!» «Ci voleva lasciare riposare dopo l'abbordaggio di 4 giorni fa. Tu vieni dalla Marina Militare, vero?» «Sì, perché?» «Quasi tutti noi ne veniamo. E più dalla Francia, altri dall'Inghilterra, dall'Olanda, da nazioni assortite. Ma qui le regole sono completamente diverse. Il capitano è molte volte eletto dalla ciurma e, se non si mostra all'altezza, può essere rimosso dalla carica. In casi particolarmente gravi l'equipaggio può anche decidere di sbarcarlo in qualche isola con viveri, acqua e una pistola e lasciarlo al suo destino. Ciò fa sì che il suo rapporto con gli uomini sia più stretto che sulle navi da guerra o mercantili». Rogerio non nascose il suo sbalordimento. «E questo vale per tutti i capitani?» domandò mentre sistemava una cima nei solchi di un sistema complicato di carrucole. «No, non per tutti», ammise Le Bon. «La regola non vale per i più famosi, come sono oggi Lorenzio e De Gramont e furono in passato Lolonnais, Montbobin e quella canaglia di Henry Morgan, che Dio lo maledica. Quando un capitano è diventato illustre è lui che sceglie l'equipaggio tra la folla che vorrebbe navigare ai suoi ordini. Però anche gli avventurieri più amati hanno limitazioni ai loro poteri che sulle navi regolari non sarebbero tollerati. E per esempio non possono infliggere punizioni che credono. Tra i fratelli della costa, per dirne uno, la fustigazione è giudicata un castigo umiliante e il capitano non può infliggerlo senza l'accordo unanime della ciurma. Un solo voto contrario impedisce l'applicazione della pena». Rogerio sui galeoni aveva assistito a centinaia di fustigazioni, a volte decise per infrazioni molto lievi, In un paio di casi il marinaio era addirittura morto dopo essere stato condannato a 50 e passa frustate da parte di capitani che ci tenevano a mostrarsi inflessibili e a dare un esempio. Il fatto era che gli equipaggi, in larga misura reclutati a forza nelle taverne, inizialmente si mostravano riluttanti ad obbedire, e l'esempio serviva proprio a disciplinarli fin dal principio della navigazione. Talora il pretesto era minimo: aver rubato una pagnotta, aver tardato nell'eseguire un ordine, aver rivolto la parola a un ufficiale senza esserne stati interpellati. A Ruggero si prospettava, stando alle parole di Le Bon, un futuro paradisiaco, tuttavia qualcosa lo induceva a dubitarne. Guardò meglio il suo interlocutore, precocemente invecchiato, col viso della pelle come cuoio striato da rughe profonde, gli occhi piccoli e azzurri, i capelli grigi che cadevano al ciuffo da sotto il tricorno consunto, un fazzoletto rosso stretto attorno al cranio. «Beh, sembrate felice della vita che conducete». L'altro inarcò la sopracciglia. «Felice? Cosa vuol dire felice?» «Navigo perché non ho soldi e... e ne voglio. Ma con i bottini che catturate, mio giovane amico, gli avventurieri non sanno quanto vivranno. Quelli che muoiono nel loro letto si contano sulle dita di una mano, sulle dita di una mano. Allora si spende tutto ciò che si ha e nel minore tempo possibile. Prendi il capitano De Grammont, così severo in apparenza, ai tempi d'oro, prima che la gotta lo facesse soffrire troppo. Quando era a terra pagava una puttana al giorno, a volte due, altre tre, poi, rimasto senza il becco di un quattrino, andava per mare a recuperare il denaro perduto per le sue bisbocce. È così che si campa sulla costa fra la Tortuga Spagnola, le isole Sottovento e la Giamaica. L'ex gesuita che sonnecchiava in Ruggero ebbe un modo di ripulsa. Non vedo motivi validi di piacere nel vivere così. «Oh, che ce ne sono!» Le Bon fece l'occhiolino. «Il piacere maggiore lo scoprirai tu stesso e non voglio anticipartelo!» Subito dopo il nostromo del Neptune si mise zitto e fece finta di non udire le domande che Ruggero gli rivolgeva. Un paio di giorni dopo il portoghese interrogò nuovamente Le Bon. Non c'era un filo di vento e stavano calando a mare una scialuppa perché... sia pure lentamente, trascinasse il veliero. Gli aiutavano sei marinai, che sarebbero stati rematori, e anche gli altri due brigantini, ben distanziati dall'ammiraglia, stavano eseguendo la stessa operazione. Ruggero, col fiatone, indicò gli enigmatici personaggi vestiti di pelli che, perennemente muti, apparivano ogni tanto sul castello di poppa con i lunghi e pesantissimi fucili sempre in pugno. «E quelli là come mai non lavorano?» «Scherzi», rispose Le Bon, «quelli sono i bucanieri. Quando tocca a loro, il lavoro lo fanno e lo fanno bene. Bucanieri. Eh sì, prendono nome dal bucan, il forno in cui si cuoce la carne. In origine praticavano la caccia al bisonte, al cinghiale e al montone sulla costa settentrionale di Spagnola. Gli spagnoli li vollero togliere di torno e sterminarono mandri e selvaggina. Così i bucanieri furono costretti a emigrare alla Tortuga. Sono grandi tiratori e i capitani cercano di averne sempre alcuni a bordo. E perché non parlano con nessuno? Perché nessuno li capirebbe, si esprimono in inglese imbastardito, misto a parole francesi storpiate e altre di origine indigena. Ruggero riflette un poco. Impressionano, però sembrano dei miserabili. Uno dei marinai impiegati nel sollevamento della scialuppa scoppiò a ridere. «Non fidarti delle apparenze, portoghese! Alla Tortuga non c'è un solo bucaniere che non possieda almeno qui 10 o 15 schiavi. Sono loro che gli scovano la preda e gliela cuociono nel bucan. Avere buona mira rende bene», Le Bon precisò. «Tenere dei bucanieri a bordo è indispensabile durante l'abordaggio. Mentre le navi si affiancano, i fucilieri con l'arma sul trespolo danno una spazzata alla coperta nemica. Dopo, saltare sul galeone diventa molto più facile». Ruggero osservò nuovamente i cinque bucanieri. Parevano statue. Si tenevano immobili come fossero insensibili al beccheggio e guardavano lontano. Facevano tutt'uno col loro fucile. Parlatemi del capitano De Grammont, disse Ruggero Le Bon, anche per sfuggire al curioso senso di estraneità che lo stava afferrando. Una sensazione frequente in quei giorni, capace di metterlo a disagio. Che tipo è? Le Bon uscì dal suo mutismo. È forse il migliore capitano che abbiamo adesso, la tortuga, rispose senza alzare gli occhi dal proprio lavoro. Il più amato, il più rispettato, persino più di Lorenzio. Dico bene, garçon! E gli altri pirati, ormai pronti a sollevare la scialuppa, assentirono. Sì, è così. Eppure ha dei grossi difetti, proseguì Le Bon. È sempre imbronciato per via della gotta che lo fa soffrire e di certe tragedie personali che ha vissuto, come la morte di una sorella a cui era molto affezionato. Non ha nessun rispetto per la religione. È l'unico capitano che bestemmia il nome di Dio, di Gesù, della Madonna e dei Santi. Lolonné, per dirne uno, non bestemmiava mai. E pensare che era una specie di demonio. Inoltre De Grammont non è un vero uomo di mare, è un combattente di terra. E lì non lo uguaglia nessuno. Che cosa volete dire? Che non sa navigare? No, in mare se la cava benino, ma niente di più. In origine, De Grammont era un ufficiale dell'esercito di Sua Maestà Luigi XIV. Si era arruolato perché, dicono, a 14 anni aveva ucciso un uomo in duello. Si imbarcò, diventò capitano di fregata, ma preferì raggiungere gli avventurieri alla tortuga. È stato lui a prendere Veracruz assieme a Lorenzio e Nicolas Fanon 2 anni fa. Oh sì, ho udito parlare di quel saccheggio, disse Ruggero, cercando di radunare i brandelli delle storie che gli avevano raccontato. E Veracruz era ritenuta inespugnabile. È perché non si aspettavano un attacco per via di terra. I cannoni della fortezza di San Juan de Ulua erano tutti puntati verso il mare. De Grammont ci fece sbarcare a valle della città e ci guidò in una marcia attraverso la foresta che resterà memorabile. Fummo sugli spagnoli prima che loro potessero allestire una qualsiasi difesa e ne facemmo strage. Uno dei pirati rise. Raccontagli cosa accadde nella cattedrale, François. Dopo. Cigolante sui paranchi la scialuppa scese in acqua con un tonfo. Di lì a poco Ruggero era in mare, che remava per cercare di trainare il Neptune. Lo stesso accadeva con le altre 2 navi, il Mutin e l'Intrepid, comandate, aveva saputo il nostro uomo, dai capitani Michel Agdes-Zun e Jan Willems. 3 piccolissimi pesci pilota guidavano i loro squali, però trascinandoli. La fatica era immane, dato che il calore e l'oceano sotto un sole impietoso assumeva una tinta dorata che feriva gli occhi e bruciava la pelle. Non c'era un alito di vento, la superficie acquea presentava solo minime increspature schiumose, un grande silenzio pesava come una cappa rotta unicamente dal battere dei remi. Poi il vento arrivò improvviso, violentissimo, cattivo. E chissà perché Ruggero lo interpretò come un presagio del suo prossimo avvenire. You don't know me, but I know your girlfriend. I know you're in love. Here with bad news, and you know the truth. What do you want? What should I say? You know the truth, you lie every day. Come as a friend, not as a foe. To dread the truth, you dread. She walks with the dead, with the dead. Now you look at me like I'm out to get you. No, tell you the truth. That's all I come here to say. What do you want? What should I say? You know the truth, you lie to yourself every day. Come as a friend, not as a foe. This is the truth. Got to dread, she walks with the dead. With the dead. Above and high. conjuring up her buddies, taking them in. She walks with the dead, with the dead. Many a man she's ruined, many a man put to hell. Hell for the evil spell. Why don't you leave my friend alone? Now it's your time. Take off the ring. Who do you want? What should I say? You know the truth, she lies to you every day. Come as a friend, not as a foe, not to dread. She walks with the dead, with the dead. Walks with the dead, with the dead. What do you want? What should I say? You know the truth, the light of every day. Come as a friend, not as a foe in dread. She walks with the dead, the dead. He walks with the dead, the dead. Okay, what do you want? Just leave my friend alone. Can't you find some other guy to take with you to the dead? You wicked bitch. Walk with the dead. He walks with the dead. With the dead. The dead. Walks with the dead. Loro erano Deadbolt con il brano She Walk With Dead. Ora si ripassa alla controinformazione con uno scritto da parte dei compagni delle CCF in solidarietà con Monica e Francisco. Il testo ha per titolo Dio è morto. Nel contesto dell'appello solidale internazionale con Francisco Solare e Monica Caballero, accusati dallo Stato spagnolo per aver collocato un ordigno in una chiesa, ci piacerebbe condividere alcune riflessioni in ordine sparso riguardo alla tirannia degli dèi. Mai più buoni, mai più credenti mediocri in un Dio mediocre. Errore di battitura dell'essere umano. Aspettiamo la resurrezione dei vivi. Estratto del comunicato delle CCF della collocazione di quattro meccanismi incendiari a tempo in quattro chiese nell'aprile 2009. Chiese erette come spaventapasseri per spaventare la vita. Tutto ciò che è bello, passionale, ribelle e inesplorato viene condannato come peccato. La vita è piena di divieti e il servilismo viene elogiato. È bene che esistano le chiese perché ci ricordano che la religione uccide la vita. Il Dio che hanno costruito è un dittatore eterno, controlla ogni momento della nostra vita per poi giudicarci senza alcuna pietà. Neanche i nostri segreti ci appartengono. Il suo amore è armato di minacce di castigo eterno lanciate contro chi osa mettere in discussione i suoi comandamenti. È bene che esistano le chiese perché ci ricordano che il loro Dio è un fascista vanitoso. I sacerdoti sono dei preti colonnelli della dittatura di Dio, più triviali e rigidi del loro stesso Dio, avari, lestofanti, ipocriti e pedofili. Collaborano coi politici, con gli imprenditori e i militari, benedicendoli con i loro crocifissi d'oro in ambienti lussuosi. È bene che esistano le chiese perché rivelano la bruttezza dei suoi celebranti della messa. I credenti sono uno stormo privo di volontà propria che ritmicamente si fa il segno della croce sotto l'occhio vigile di Dio. Più le croci sono grandi, più sono ipocrite. Le moltitudini di devoti è come gli schiavi nell'arena dell'antica Roma. Salve Dio, i condannati ti salutano. Umili e rancorosi rifiutano tutto ciò che è diverso, ogni eccesso e ogni piacere che non si abbassa davanti alle loro icone. È bene che esistano le chiese perché dimostrano che gli imperi più grandi poggiano sulla fede dei propri sudditi. Il cristianesimo è la dottrina della morte, promette la menzogna della vita eterna per sviluppare il presente, il qui e ora. La vita che viviamo non è altro che una prova di fede, una battuta di cattivo gusto fatta da Dio per metterci alla prova. Ama il tuo ama il prossimo tuo, dicono le scritture, mentre i preti amano potere e ricchezza. La religione è un business redditizio. Prima c'erano le crociate, oggi c'è la chiesa, imprese, banche, stazioni, televisive, giornali, terreni e complessi edilizi. È bene che esistano le chiese perché ci ricordano che la libertà deve scavalcare le macerie e le rovine dei loro templi. A Monica e Francisco ci lega la solidarietà e l'affinità anarchica più forte di qualsiasi Dio. Ci sono anche lettere che sono uscite dalle carceri cilene e greche. Alcune hanno raggiunto la destinazione e altre sono andate perdute senza essere lette, nel nostro caso. Più o meno è cominciato così il nostro contatto con Monica, con i prigionieri, con i compagni del caso Bombas in Cile e con dozzine di altri fratelli e sorelle d'azione che sono imprigionati dal potere. Pertanto tutto ciò che è stato detto e ciò che non è mai stato scritto in una o nell'altra lettera continua ad essere valido, fino alla liberazione di ognuno di noi. Si guardano reciprocamente, le parole non erano necessarie. Inoltre, da dove dovrebbero uscire le parole che raggiungono la vita della libertà? Il tempo è congelato, questi erano i suoi momenti. La fuga era stata progettata da un mese. Tutte le ansie, le preoccupazioni, le avversità che ti gioca la sorte, le risate, le inquietudini e i sogni, adesso bisogna affidarsi a 3 minuti che durerà l'attacco. Guardò il cacciatore. 15 colpi, 15 respiri di libertà. E un altro ancora, il suo respiro, quando sentì la sua voce dire: andiamo, libertà o morte. Forza e compagna al nostro fratello Francisco Solare e alla nostra sorella Monica Caballero, l'internazionale nera degli anarchici che d'azione si espande. Creiamo 10, 100, 1000 cellule d'attacco. Cospirazione delle cellule di fuoco, FAI, FRI, cellula dei prigionieri, membri. E poi c'è un post scriptum. Nella mattina di mercoledì 11 dicembre 2013, il compagno Sebastiano Veslucci Seghel è stato ucciso dai proiettili sparati da un vigilante durante una tentata rapina in banca. In seguito la polizia ha arrestato altri 2 compagni, Alfonso Vial Sanchez e Hermes González Enriquez. La rapina in banca per gli anarchici d'azione è un'azione esistenziale e insurrezionale per rifiutare la costrizione e la moralità della schiavitù salariale imposta dai padroni. Libertà per i prigionieri Alfonso e Hermes, vendetta per il compagno Sebastian. E questo era scritto da parte dei compagni delle CCF, che rientrava nell'arco della settimana di solidarietà con i 2 compagni arrestati in Spagna qualche mese fa per gli attacchi alla Basilica del Pilar e forse anche a quell'altra, da quanto si è cercato di capire. Quindi anche le CCF hanno fatto sentire la loro voce riguardo alla solidarietà con Monica e Francisco, e queste sono le cose che vorremmo sentire almeno dalle carceri e non gli scazzi che sono accaduti qualche settimana fa e di cui Radiazione non ne parlerà, non ne ha parlato e non ne parlerà. Questa era per quanto riguarda la controinformazione. Ora ci ascoltiamo un brano dei Black Light Burns Mesopotamia, e poi dopo si ritorna qui e si ritorna con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Just non si scatenò una vera tempesta, malgrado qualche raffica di pioggia, tuttavia l'impeto del vento fu tale da spingere le navi a dispetto della velatura ridotta al minimo. Il momento peggiore fu quello iniziale, quando le folate improvvise riempirono d'acqua la scialuppa e rischiarono di affondarla. E non fu facile remare in gran fretta fino a raggiungere la fiancata di tribordo della Neptune che, ancora con le vele principali spiegate, correva sulle onde e oscillava paurosamente. Ancor meno facile fu issarsi a bordo con le griselle lanciate dai compagni. Quando poté afferrarne una e salirne qualche bracciata, Rogerio, magro e leggero, si trovò a volteggiare nell'aria come un fuscello, per fortuna sollevato in orizzontale e spinto contro un mascone. Poté aggrapparvisi e scavalcare la murata. Gelava di freddo, era intontito e spossato, non era finita. Bisognava imbrogliare le vele con urgenza, parte del lavoro era già stato fatto, mancavano però all'appello le contromezzane e le vele di gabbia. Lorenzio aveva preso di persona il timone. «Nostromo alle contromezzane!» urlò. «Sì, capitano!» rispose Le Bon. «Portoghese, seguimi!» Rogerio si accorse che i suoi ex compagni di scialuppa erano già tutti a bordo e in condizioni migliori delle sue. Nessuno però sul brigantino era messo tanto bene. I marinai non avevano avuto il tempo di indossare le cerate e fradici erano esposti alle onde che spazzavano la coperta. Ogni tanto qualcuno, sommerso dalla schiuma, ruzzolava lungo il ponte col rischio di finire in mare o di rompersi le ossa lungo l'impavesata. Malgrado ciò, l'intero equipaggio era sul ponte, impegnato a eseguire come meglio poteva gli ordini di Lorenzio di Philippe Calois, il primo ufficiale. Salire le griselle con un vento così potente sembrava impossibile, e ancor più strisciare sui pennoni per serrare le vele. Rogerio pensò, senza terrore, solo con rassegnazione, che non ce l'avrebbe mai fatta. Invece, lui e il piccolo gruppo di uomini guidato da Le Bon riuscirono, chissà come, a bruciarsi le dita con gli imbrogli fino a serrare del tutto. Subito il Neptune riacquistò una certa stabilità. Quando tornarono sul ponte, Le Bon batté la mano sulla spalla di Rogerio. «È bravo, sarai un buon mostromo, portoghese!» Poi, rivolto a Lorenzio, gridò: «Capitano, questa non è una bufera normale, qui c'è di mezzo il diavolo!» Lorenzio, torbo, impegnato col primo ufficiale a ridurre all'obbedienza un timone ribelle, urlò alla ciurma: «C'è qualcuno che conosce una preghiera intera? Valida sia per i cattolici sia per gli ugonotti!» E poiché nessuno fiatava, Rogerio trovò l'ardire per rispondere: «Io ne conosco una, mon capitan!» «E allora recitala forte e in buon latino!» Rogerio, che si teneva stretto ad una sartia, aveva la schiena esposta agli spruzzi, iniziò a scandire con quanto fiato aveva in gola: «Miserere Dei mei, et exaudi orationem meam, miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum, sana me!» Per la durata della preghiera gli uomini continuarono le loro attività come se nulla fosse. Alla fine, però, furono in parecchi a dire «Amen!». Ciò che accadde, Rogerio non se lo aspettava davvero. Il vento cessò di colpo, le nuvole cariche di pioggia smisero di correre nel cielo, il mare si placò. Rimase solo una brezza leggera e costante, l'ideale per una buona navigazione. Lorenzio allora fissò Rogerio con curiosità, anche con una certa ammirazione. «Tu sei un tipo interessante, portoghese. Sei per caso un prete?» «Sono stato un gesuita, signore.» «Capisco. Ma forse è meglio che tu non lo dica a Monsieur de Grammont quando lo incontrerai, e non glielo dirò io.» E si rivolse al primo ufficiale che aveva restituito la barra a un timoniere. «Bisognerebbe spiegare le vele, ma immagino che gli uomini siano troppo stanchi.» «Proprio così», rispose Philippe Calois, che aggiunse: «Non so se vi siete accorto che abbiamo perso di vista le navi di Adriszon e di Willems.» «Me ne ero accorto. Il vento le avrà trascinate chissà dove. Ora ci tocca cercarle.» Lorenzio si aggrappò alla balaustra del cassero e arringò la ciurma. «Uomini, so che siete stanchi e vi concedo un'ora e mezzo di riposo per cambiarvi, asciugarvi e rimettervi in sesto. Se però qualche gabbiere avesse voglia di sciogliere le vele dopo, avrà diritto a un riposo di 2 ore ad una razione supplementare di rum. Rogerio non avrebbe mai creduto che fossero in tanti ad accettare l'offerta. Lui però non se la sentiva, tremava da capo a piedi e temeva di avere la febbre. Scese nel cassone che ospitava le amache per l'equipaggio, non aveva indumenti di cambio né stracci per asciugarsi, aveva lasciato il suo sacco a bordo del Re dei Reyes. Stava per rissarsi mestamente sull'amaca quando si sentì toccare un braccio. Era un pirata grosso e molto chiaro di pelle che Rogerio sapeva chiamarsi Willem Klagen, forse dai Paesi Bassi. E gli stava porgendo un camicione di tela, dei pantaloni e vari stracci. «Mettiti questi, gesuita», disse l'omone. «E grazie, Dunk, a nome di tutti». «Ma grazie di cosa?» chiese Rogerio. «Ah, lo sai, per aver scacciato il diavolo». Attorno, dalle loro amache, o ancora intenti a cambiarsi, gli uomini che avevano scelto il turno di riposo annuirono. «Bravo, bravo, gesuita, sei stato molto in gamba». Rogerio rimase un po' imbarazzato e nello stesso tempo lusingato. Aveva persino temuto in un angolo della sua mente di venire accusato, quale nuovo a bordo, di essere stato la causa del vento misterioso. E adesso intuì che da quel momento avrebbe goduto di una posizione di particolare rispetto. Un'ora di riposo non era lunga, e quando suonò la campanella del cambio di turno, Rogerio sentiva ancora dolergli le ossa. Per fortuna non era più infreddolito, anzi, quando si affacciò sul ponte fu investito dal caldo intenso di un pomeriggio tropicale temperato dalla brezza costante. Il Neptune, con 2/3 delle vele spiegate, filava veloce e, sebbene non fosse una nave tanto potente, appariva quasi maestoso. Doveva esserci qualche dubbio sulla posizione, perché davanti alla chiusura della bussola Lorenzillo e Calloa discutevano animatamente. Il cuoco bretone, Auguste Lebras, con l'aiuto di uno schiavo chiamato Bamba, avrebbe portato dalla cucina una grossa pentola e l'aveva sistemata sotto l'albero maestro. Ora distribuiva, in sostituzione del pranzo delle 10 saltato a causa della bufera, pezzi di carne salata. Gli uomini li prendevano e li addentavano per poi tornare immediatamente alle loro occupazioni. La cena vera sarebbe stata dopo il calar del sole. Rogerio, con la sua fetta di carne in mano, si accostò alle Bon, che stava scendendo sotto coperta a riposare. «Avete ordini per me? Dammi del tu, brontolò l'altro. Non c'è molto che devi fare, se non il nostro uomo, finché io non torno. Dunque, è semmai al primo ufficiale che devi chiedere ordini». Allora Rogerio si avviò verso il cassero. Quando lo vide, Calloa gli sorrise. «Ah, eccolo qua, il gesuita!» «Sì, signore», rispose Rogerio, che cominciava a temere di essersi appiccicato addosso quel nomignolo. «Avete comandi da darmi, signore?» Calloa accentuò il sorriso. Forse lo divertiva il fraseggio portoghese, formale come sulle navi militari e mercantili. «Gesuita, il gavone dove dormono gli schiavi imbarca acqua. Manda giù i carpentieri, poi controlla bene le polvere. Mi sono sembrati asciutto, ma non si sa mai». E dopo, in quel momento, dalla coffa del trinchetto una voce gridò: «Legno in vista dal prora via!» Lorenzillo scese dal cassero e si portò sotto l'albero, guardò in su. «È una delle nostre navi! Non lo so ancora, è sulla linea dell'orizzonte, naviga sotto vento come noi, forse verso ovest. Velocità, direi che guadagniamo, però molto lentamente!» Lorenzillo lanciò un'occhiata agli alberi. «Ci resta poco di utile da spiegare, magari il velaccino e il belvedere, ma sarebbero di scarso aiuto. No, continuiamo così». E tornò al quadrato e disse al timoniere: «Rotta ovest». Philippe Calloa scrutava il mare. «Ora vedo qualcosa anch'io, va veloce, però non quanto noi per ora». «Non ci conviene accelerare», replicò Lorenzillo. «L'equipaggio è stanco, ha bisogno di cenare in pace e stanotte di una buona dormita. Anzi, ci conviene rallentare un poco in modo da raggiungere quella nave, amica o nemica che sia, poco prima dell'alba». «Giusto!» Calloa fece cenno di avvicinarsi a Rogerio, che per quel tempo era rimasto immobile in attesa di ordini. Gesuita, manda qualche uomo a imbrogliare il belvedere e il controbelvedere e di alle bombe finito il suo turno di organizzare la guardia notturna sul ponte doppia rispetto al solito. Fai portare sovraccoperta 2 o 3 lanterne cieche. Il maestro Dasha sa dove stanno. Alle prime luci i cannoni, gli archibugi e le armi da fuoco dovranno essere carichi e pronti al tiro. I patareros andranno caricati a mitraglia. Ma che cosa sono i patareros? Chiese Rogerio. I cannoncini girevoli. Ti ricorderai tutto, Gesuita della Malora. Sì, signore. Dalla coffa giunse un nuovo grido. Capitano, non sembra un brigantino. Ha la poppa molto alta come quella dei galeoni. Fosse vero, esclamò Lorenzio. E sembra spagnolo. È ancora troppo distante, capitano, e la luce sta calando. Lorenzio era tanto allegro che saltellò in un passo di danza. Il gesuita ha fatto un doppio miracolo. Il santo che lo protegge prima ha calmato la bufera e adesso forse ci regala una preda inaspettata. Sentendosi interpellare Rogerio, che stava per correre a eseguire i comandi ricevuti, si bloccò. L'esito fu che Calluaglio si rivolse in tono burbero. E che fai fermo lì impalato, gesuita? Ti è venuto un crampo ai piedi? Lorenzio interviene conciliante. Non c'è fretta, Filippo. Sarà un inseguimento calmo. Abbiamo molte ore davanti prima della festa. Ad ogni buon conto, Rogerio scattò a cercare i gabbieri cui fare ridurre la velatura dell'albero di mezzana e così diminuire la velocità. Compito il suo non facile, dato che sul Neptune i ruoli erano confusi. Un marinaio poteva essere di volta in volta gabbiere, artigliere o quant'altro, però lui non rimpiangeva l'ordine e la gerarchia delle navi spagnole o francesi da guerra. Per niente. intravenus un brano Resurrection. Ora si torna alla solidarietà. Preannuncio che anche stasera si andrà avanti ancora per un pochino. Si cerca anche di recuperare così le dirette perse del venerdì. Cerchiamo anche di leggere quanto più possibile il libro Tortuga, lo ricordo. Stiamo continuando con la saga dei pirati di Valerio Evangelisti, col libro Tortuga dopo Veracruz. Allora, notizie di Contrainfo. Partiamo con una brevissima, ricordando che praticamente qualche giorno fa c'è stata l'udienza preliminare per quanto riguarda il filone dell'operazione Ardire di Perugia, dove praticamente è caduta l'associazione sovversiva. È caduta l'associazione sovversiva mentre i compagni sono stati accusati solo per reati specifici, tipo l'imbrattamento, che comunque è caduto in un reato di terrorismo. Questa è una cosa molto ridicola, giusto per dare il contentino alla Manuela Comodi, o Comodino, come si chiama lei. Allora, leggiamo ora la notizia, una mail che ci è arrivata direttamente dai compagni cileni che hanno organizzato l'iniziativa Solidarietà Fior di Pelle, che è stata pubblicata anche sul blog di Radiazione. Allora, leggiamo direttamente senza fare introduzione. Solidarietà Fior di Pelle 2014. Grazie a tutti i compagni che hanno partecipato e hanno contribuito attivamente a portare avanti questa iniziativa con volontà, determinazione e spirito creativo. Ai tatuatori, alle bande musicali, ai compagni del freak show e le sospensioni, ai compagni che hanno dato il loro contributo alla cucina e alla lotteria, a tutti i compagni che hanno frequentato e infine hanno dato vita a questa iniziativa nella sua terza edizione, cercando di dare forma concreta alla solidarietà con i nostri bigioni della guerra sociale. Il seguente, poi c'è un link che trovate sul blog di Radiazione, dove potete andarvi a scaricare l'opuscoletto, questi 2-3 fogli che sono stati distribuiti durante l'iniziativa. E poi ci sono le lettere che ora andiamo a leggere, tipo la prima, che sono parole dal CAS, il CAS CAS, praticamente il carcere di alta sicurezza che si trova a Santiago del Cile. Allora, leggiamo la prima lettera, che è firmata da alcuni compagni, per solidarietà a Fior di Pelle. Attraverso questa lettera che arriva dal carcere di alta sicurezza desideriamo salutare con un bacio e un abbraccio fraterno a chiunque attraverso le loro conoscenze oggi organizzano, partecipano e danno vita a questa particolare iniziativa di solidarietà con chiunque di noi, che viviamo la prigione come risultato di un'opzione di lotta che si confronta con questo presente di miseria e sfruttamento capitalista. Siamo e viviamo la realtà del carcere dentro al carcere, della detenzione nel segno della guerra sociale, e contro loro noi opponiamo tutta la storia della resistenza che ha legato diverse generazioni di individui, comunità e idee che ci accompagnano e che fanno parte dell'orgoglio e della dignità per tutti quelli che non ci sono, per quelli di oggi, per quelli che verranno. Negare l'esistenza della lotta significa nascondere l'obiettivo, mettere a tacere la guerra permanente contro il dominio e facilitare l'esistenza dell'obbrobrio, pullulare normalizzando la repressione quotidiana e semplicemente essere complici dello Stato capitale. Con il fuoco irriducibile di chi lotta, resiste e viva, con la memoria intatta. Onore e rispetto a Francisco Sabaté, a José Luis Oyarzún, a Mattias Catrileo, a Sebastian Versluci, al Panchi Mauri, Alex e Fabian. Gioventù combattente, insurrezione permanente, detenuti liberi in strada per l'insurrezione, finché ci sarà miseria, ci sarà ribellione, solo la lotta ci rende libera. E questa è la lettera firmata da Freddy Fuentavilla, Marcelo Villarroel, Juan Alice Vega, Hans Niemer, Carlos Chidileo, dal carcere di massima sicurezza, sezione di massima sicurezza, sabato 11 gennaio 2014, Santiago, Cile. Poi c'è una lettera di Carlos Gutierrez Chidileo, separatamente dagli altri compagni, Chi dice solidarietà a fior di pelle. Ciao compagni, in queste prime settimane di prigionia ho visto e sentito, una grande agitazione anticarceraria e quindi anti-autoritaria contro il sistema che offre un presente e futuro pieno di illusioni e speranze libertarie. Perché nonostante tutto la campagna di disinformazione di tutto l'apparato di controllo sociale, repressione e annichilimento, consumismo, polizia, carcere del sistema capitalista, una parte importante di individui, gruppi e collettivi di solidarietà insorgono e sovvertono camminando verso lo stesso orizzonte, la liberazione sociale. In questo cammino spuntano espressioni di malcontento, di lotta diretta e ribellione solidale che rompe le regole stabilite, tesse e disegna un movimento multiforme che si oppone dignitoso e ribelle in questa società e fa sue le rivendicazioni degli esclusi, degli sfruttati e prigionieri del sistema. Questo movimento con le sue vere espressioni, con il suo entusiasmo, i suoi sogni, con le sue proposte e la sua solidarietà a fior di pelle ha una forma cosciente e trasparente, conquistando spazi e conquistando i cuori degli cuori e pelli insidiandosi come un'alternativa autonoma e solida di resistenza contro il sistema e che sorvette la realtà e colpisce tutto quello che il sistema capitalista e la sua società carceraria vogliono imporre con la forza come verità unica, vera e completa. E così anche con questa bellissima avventura, con la sua arte puntando e contribuendo ad una vita più dignitosa e soddisfacente. Con queste parole voglio tatuare sul loro cuore il mio rispetto e abbraccio. Un libertario abbraccio fraterno, fin quando ci sarà miseria ci sarà ribellione, fin quando ci saranno prigioni ci sarà solidarietà a fior di pelle. Carlos Guterres Quirileo. Poi ci sono le parole di José Miguel Sánchez, fratelli di solidarietà a fior di pelle, presente. Dalle fauci della bestia carceraria nell'ex prigione Cagliari 9, scrivo questa lettera piena di ribellione, desiderio, gratitudine e la voglia di tornare subito nelle trincee della lotta per l'emancipazione totale, a volte unito con alcune di voi. Attraverso queste righe voglio ringraziare il gesto disinteressato fatto da prigionieri con questa iniziativa. Grazie fratelli, gesti così mostrano che noi non siamo soli, che c'è un gruppo di menti coscienti prendenti dalle nostre vite prigionieri e questo è apprezzato all'infinito. Nel mio caso sono solo 50 giorni di carcere per un totale di 20 anni, ma ci sono fratelli che forse faranno chissà quanti anni di carcere. Fratelli che meriterebbero di essere presenti sempre, a loro vanno i miei apprezzamenti e il pieno sostegno e li esorto a continuare con gesti come questo, per la lotta per la distruzione della società a carcere e affrontare il potere in tutte le sue forme, senza dimenticare i prigionieri e di rendere essi parte attiva di una lotta per liberare i nostri prigionieri, con la convinzione che presto saremo insieme in battaglia fraternamente. José Miguel Sánchez, ex carcere di Santiago Cagliari 9, 10 gennaio 2014. E poi finisce con uno slogan, la lettera di José: violare la pace dei ricchi, azione diretta e violenta ora per distruggere la società prigiona, la lotta è oggi e non domani. E questa era per quanto riguarda le notizie fatte avere direttamente dai compagni attraverso la mail per quanto riguarda le iniziative fatte in Cile sull'iniziativa Solidarietà a fior di pelle. Con i testi scritti, lo ricordo, attraverso il blog di redazione nell'articolo c'è un link dove c'è scritto scarica qui l'opuscolo, praticamente l'opuscolo che è stato distribuito durante l'iniziativa. Questo è tutto per la controinformazione di oggi. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Cobalt 16 con il brano La Morte, e poi dopo si torna e si torna con tre brevi ultimi capitoli di Tortuga di Valerio Evangelisti. Je marchais, elle est venue droit sur moi. Uccidetele spesso! Uccidetele spesso! Quando Rogerio poté raggiungere la propria amaca, che come quella di Le Bon era un po' discosta dalle altre, alcuni pirati dormivano già, mentre altri chiacchieravano a bassa voce e fumavano lunghe pipe. Le Bon non c'era. Lo avevano chiamato in coperta per il primo turno di guardia. Lui aveva accettato senza protestare. Era incredibile l'energia di quell'uomo già anziano. Eguagliava quella di Lorenzidio e di Calloa ancora in piedi malgrado una giornata tanto faticosa. Rogerio era cavalcioni sull'amaca quando si sentì chiamare. Signor Nostromo. Sì, era un mozzo che la ciurma chiamava Minù, come fosse un gattino. Era un bel ragazzetto sui 13 anni, biondo e in apparenza fragile, timidissimo. C'erano altri due mozzi sul Neptune, anche loro con nomignoli curiosi, Filù e Tapì, tutti della stessa età e tutti con le stesse caratteristiche, una timidezza innata e un eterno timore negli occhi. Rogerio ne aveva conosciuti alcuni così nella marina spagnola, però altri erano sfrontati e sempre allegri, a dispetto delle fatiche a cui li si sottoponeva. Quella seconda specie sul brigantino pirata pareva non esistere. Signor Nostromo, il dottor Ravenò de Lussano, il medico di bordo, chiede se prima di dormire volete fumare una pipa con lui nel suo alloggio, ne sarebbe davvero onorato. Rogerio era assonnato, però il chirurgo lo incuriosiva. Era molto raro vederlo sopra coperta. Di solito se ne stava nella sua cabina entro il quadrato di poppa, la più esterna, confinante con la cambusa. Le poche volte che ne usciva era abbigliato come un gentiluomo di corte, con tanto di parrucca incipriata e di alamari argentati. Passeggiava fino al Buon Prezzo e lì si attardava a osservare il mare, poi tornava indietro. Non rivolgeva la parola a nessuno, salvo che a Lorenzio e al primo ufficiale. L'equipaggio, che ne aveva grande rispetto, lo salutava pur sapendo che lui non avrebbe risposto. Rogerio con un sospiro scese dall'amaca. «Va bene, vengo, accompagnami». Dal fondo della camerata proruppe il vocione di Henri Duval. «Oh, ma guarda, c'è Minù, vieni qua ragazzo, ho proprio bisogno di te». Il mozzo ebbe un fremito palese. «Non posso, devo andare dal dottore, sei malato, ti curo io», sghignazzò Duval. Dalle amacche si levarono proteste. «Vuoi stare zitto, Henri? Piantala! Hai dimenticato che domani si combatte?» Rogerio si era portato alla base della biscaglina. Minù lo prese per il braccio. «No, non occorre salire in coperta, possiamo passare di là», disse indicando una porticina molto bassa. Conduceva al lungo corridoio dei cannoni. Gli artiglieri ronfavano poggiati sugli affusti, pronti a entrare in azione al momento dello scontro. Le palle erano sistemate in piccoli cumuli conici. I proiettili doppi legati da catene erano allineati con cura accanto agli involucri della mitraglia contenenti chiodi e frammenti di metallo. Attraversato l'ambiente per avere accesso al quadrato bisognava salire in coperta. Il Neptune filava silenzioso, con le vele gonfiate dal venticello che non era mai calato di intensità. Sul ponte la visibilità era scarsa, le lanterne cieche illuminavano ciò che era necessario. Rogerio vide a distanza le sagome scure di Le Bon e di altri tre uomini che camminavano su e giù per tenersi svegli. La notte, priva di luna, era calmissima. Minù lo condusse entro il quadrato, da cui si scendeva agli alloggi del capitano, del medico e dei due ufficiali, anche se sul Neptune ce n'era solo uno. Indicò l'uscio di Ravinot de Lussan. «Bussate, vi aspetta!» e fece per andarsene. «Dove dormite voi, Muzzi?» chiese Rogerio. «In una cala a prua dove i carpentieri tengono i loro attrezzi. Strano, normalmente i Muzzi dormono con l'equipaggio.» Minù non rispose e si allontanò. Rogerio allora scosse il capo e batté un colpetto sull'uscio. De Lussan venne a rigli. «Oh, che bello che siate venuto!» esclamò. «Ci tenevo a conoscervi, entrate, entrate!» La cabina del chirurgo, rischiarata da un candeliere, era piccola e arredata con semplicità. Conteneva un lettino, un piccolo tavolo centrale con due sedie, uno scrittoio pieno di sportelli di legno intarsiato e un grosso baule. Alcuni strumenti chirurgici di uso frequente pendevano da ganci infissi nelle pareti, seghe di varia lunghezza, coltelli, pinze e pinzette. Due scaffali reggevano l'uno libri, l'altro vasi contrassegnati dai nomi latini delle sostanze medicinali che contenevano. De Lussan indicò il tavolino. «Come vedete, ho fatto il possibile per assicurarvi un'accoglienza decorosa. Quello che c'è nelle tazze è brodo di gallina e per questa rarità dobbiamo ringraziare il pollame del galeone su cui eravate imbarcato. Spero che sia ancora caldo. Nei bicchieri c'è del rum della Martinica. Purtroppo il comandante ha messo sotto chiave tutte le bottiglie di vino di Rioja. Le pipe sono già accese. Il tabacco viene dalla tortuga e vi assicuro che è tra i migliori del continente.» Rogerio si sentiva imbarazzato. «Vi ringrazio, dottore, della vostra generosità. Ma a che cosa è dovuta?» «Non è tanto facile avere l'opportunità di conversare con un membro della Compagnia di Gesù. Di solito è garanzia di uno scambio di idee intelligente. Ma sedete, sedete.» Rogerio obbedì. Il medico, che in quel momento non portava la parrucca e indossava una semplice camicia di seta bianca, gli mise di fronte e gli porse una lunga pipa di legno dal fornello intarsiato. Il portoghese diede un tiro e espulso il fumo, sorseggiò un po' di brodo. Era squisito e ancora tiepido. «Dottore, ho lasciato la compagnia 6 anni fa, non so se conservo le caratteristiche del gesuita a partire dal grado di cultura.» «Ma ne conserverete, immagino, le convenzioni di fondo.» «Molte sì, però troppe volte mi sono allontanato dal sentiero della chiesa per mantenere il legame col mio passato. Non potrei mica dirmi un buon cristiano.» «Un legame almeno è rimasto. Parlate forbito, per di più in una lingua che non è la vostra, cosa davvero insolita a bordo del Neptune.» De Lussan sorbì la sua tazza di brodo fino all'ultima goccia, poi si asciugò le labbra con un fazzolettino ricamato. «Molti gesuiti che vengono nel mondo nuovo o nuovo mondo sono animati da un convincimento per me bizzarro, cioè quello che tutti gli uomini siano per loro per natura buoni.» «E perché è bizzarro? L'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio e dunque alla nascita è per forza buono.» De Lussan fece una risatina. «Voi vedete qualcuno su questo vascello che somiglia a Dio per qualche verso?» Prima di rispondere, Rogerio finì il suo brodo e intanto raccoglieva le idee. «Io parlavo di bontà alla nascita», disse. «Dopo, il dono del libero arbitrio consente anche di scegliere il male e di allontanarsi dall'immagine divina. Mio caro amico, questa, da uno come voi che ha studiato teologia, non me l'aspettavo proprio», replicò De Lussan in tono ironico ancorché bonario. «Vi riferite alla nascita e dimenticate il peccato originale. Qualsiasi neonato è peccatore e dunque dissimile da Dio.» Rogerio cominciava a chiedersi dove il chirurgo volesse andare a parare. Portò alle labbra il bicchiere di rum che l'altro gli aveva riempito. Il liquore trasparente era ruvido e forte, bruciava il palato molto più del rum ambrato servito di solito all'equipaggio. «Il peccato originale lo si monda con il battesimo», vale a dire con un atto esterno e non per libera scelta. Ciò significa che si nasce malvagi e per niente simili a Dio. Non a caso la Chiesa condanna al castigo eterno i bambini che muoiono prima di essere battezzati, ciò perché non li considera affatto buoni per loro natura. Una certa irritazione cominciava a impadronirsi di Rogerio, provocata anche dal tabacco cui non era abituato e dal rum inebriante. Contro la sua volontà parlò in tono cortese ma lievemente aggressivo. «Mi pare che voi abbiate una vostra idea, dottore. Vorreste spormerla in modo che io sappia meglio di cosa stiamo discutendo». De Lussan, che beveva e fumava, scoppiò a ridere. «Non avete torto, signor Nostromo. Sì, una mia idea ce l'ho, ma prima di esplicitarla voglio che vediate con i vostri occhi quel che è capace di fare la gente su questa nave. Qualcosa avete scorto o intuito, però non abbastanza. Solo dopo sarete in grado di comprendere a fondo il mio pensiero circa la vera natura dell'essere umano». Rogerio riflette. «Ho visto comparazioni feroci, però questo è in un certo senso normale, è in uno stato di guerra. Voi non avete visto ancora nulla, amico mio». De Lussan strizzò le palpebre e si sporse un poco sul tavolino. «Credetemi, nulla di nulla». Rogerio represse un brivido e non seppe cosa replicare. Si rifugiò nel bicchiere. Cominciava a sentirsi a disagio. Poiché l'altro taceva e si limitava a osservarlo sorridendo, fu costretto a improvvisare una domanda qualsiasi. «Mi pare di capire, dottore, che il Neptune e il suo equipaggio non vi piacciono troppo, sbaglio?» «Sì, sbagliate», rispose De Lussan a bruciapelo. «Il Neptune è una sintesi brutale, dunque vera, non ipocrita, di ciò che è il mondo nel suo assieme. Ciò vale naturalmente anche per il Mutine, per l'Intrepide, per la Tortuga tutta intera, come vedrete quando vi metterete piede. In questo senso, è un posto d'osservazione straordinario per chi voglia riflettere sulla condizione umana. Non so se riuscite a seguirmi». «In effetti solo in parte, dottore», era la verità. Rogerio qualcosa intuiva, però non tutto, e ciò che scorgeva gli sembrava spaventosamente empio. «Un altro vantaggio di stare sul Neptune è quello di avere a che fare con un capitano uomo straordinario, Laurence de Graaf, Lorenzio. Lo stimate molto? Non immaginate quanto. Lui e più ancora de Gramont sono gli antesignani di una nuova razza di capi in grado di condurre branchi di canaglie d'ogni risma verso il luminoso destino». Rogerio rimase interdetto, terminò il suo rum e chiese: «Quale destino? La redenzione, la gloria, l'onore, la libertà?» «Oh no!» ridacchiò De Lussan, la barbarie più assoluta. E vi fu un nuovo silenzio che il chirurgo ruppe chiedendo: «Volete altro rum?» «No, grazie». Rogerio posò la pipa e si alzò, si sentiva un po' intontito. «Domani forse si combatte, io ho bisogno di qualche ora di sonno». De Lussan lo accompagnò alla porta. «È stata una conversazione piacevole, signor Nostromo, spero che la riprenderemo». «Con grande piacere, dottore», mentì Rogerio. «Posso farvi un'ultima domanda?» «Certo. Per quale motivo avete abbandonato la compagnia di Gesù?» Mai e poi mai Rogerio avrebbe rivelato alcunché su quel tema. Imbastì una risposta plausibile. «Sentivo di non avere una vera vocazione e mi attraeva alla vita militare». De Lussan sorrise. «Vedo che siete reticente e del resto è vostro diritto. A domani». Il ponte del Neptune era avvolto nel buio, mentre in fondo alla notte brillavano le luci della nave inseguita. and bellhops. You bought them all here and there. Children of God and the joy strings. International women with nobody hair. Ooh, so well you're asking it and Ali and your voice ain't steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're not orgasm addict. You're not orgasm addict. Johnny won't fuck it always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict. Allora, abbiamo deciso che praticamente di leggere si dovevano leggere gli ultimi tre capitoli, però ne abbiamo letto uno e gli altri due li rimandiamo nella prossima diretta, meno che vanno creare, in sequenza fra di loro, per creare un attimo l'arrembaggio. Sì. Quindi per oggi finisce qui la diretta d'azione. Ricordo gli indirizzi utili per radiazione @giacciolinoautistici.org per la mail, per mandare qualsiasi tipo mail, anche critiche, anche le stronzate che qualcuno scrive sulla chat. Chi si offende è sempre un fedele. Chi si offende è un fedele, quello è classico, è normale, l'avevamo un attimo dimenticato questo piccolo slogan. Allora, quindi redazione @chiocciolinoautistici.org per il blog invece, dove potete leggere la controinformazione aggiornata, e redazione.nonblogs.org invece per la radio, redazione.listentumaradio.com. Altrimenti attraverso il banner che trovate sulla redazione ci cliccate sopra il lunedì e il venerdì dalle ore 17 e ascoltate la diretta d'azione. Per chi vuole anticiparsi, dalle